Essere e benessere di Nicoletta Carbone. È scoppiata l'estate, verrebbe da dire, finalmente, con tutto quello che l'abbiamo aspettata. Estate uguale vacanze. Vacanze è una parola magnifica, ma se hai figli in casa questa parola resta magnifica, ma diventa un pochino più impegnativa. Insomma, richiede un po' di organizzazione. Paletta, secchiello e il turbine blu, le onde che vanno a giù. Vacanze con i bambini, come pensate di cavarvela? Cosa state organizzando? Quali sono le sfide principali che pensate di dovervi giocare durante l'estate, che è molto lunga almeno per i bambini? In linea con noi è tornato a trovarci Alberto Pellai. Ciao Alberto! Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva, l'avete richiesto a gran voce nella puntata della scorsa settimana in cui ci siamo occupati di ragazzini, di ragazzi nella fase adolescenziale, e molti di voi mi hanno scritto: ma chi ha bambini piccoli? Eccoci qua Alberto, quindi a gran voce eccoti ancora con noi. Alberto, siamo entrati in una nuova lunghissima estate. Ti è già capitato di raccogliere qualche richiesta disperata da parte dei genitori che sono già in crisi perché le vacanze sono lunghe? Sì, direi che i genitori hanno tre aree concrete su cui in qualche modo sono sfidati dalla stagione estiva. La prima è proprio un po' un'area di dove li metto, dove li piazzo, cosa gli faccio fare, perché magari molti di noi continuano a lavorare, certo. I bambini hanno tutta la giornata libera e quindi questa è una preoccupazione a metà tra il concreto e l'educativo, cioè li faccio stare a casa, si riposano, poi però magari guardano l'intera giornata. Stanno tutto il giorno davanti alla TV, non fanno nulla, poi si annoiano. E invece qual è la cosa migliore con cui li posso stimolare, eccetera, eccetera. Secondo aspetto è quello un po' relativo alla continuità tra la fine della scuola, le vacanze e poi le riaperture di settembre, che spesso si chiama compiti delle vacanze, perché quella è proprio una zona intorno alla quale il genitore deve in qualche modo costruire un accordo con i figli, non può presidiare i compiti dei figli come magari succede durante l'anno scolastico, dove controlla hai fatto i compiti per domani, per il giorno dopo. Adesso c'è da preparare qualcosa che servirà fra tre mesi e questo è proprio un buon laboratorio anche per aiutare i figli magari a organizzarsi un po' meglio. Tra l'altro Alberto, a proposito di compiti delle vacanze, vi segnalo su Repubblica c'è un servizio, un articolo molto interessante di Massimo Vincenzi: la rivincita dei compiti delle vacanze servono a tenere la mente allenata. C'è un decalogo e sono rimasta colpita: i compiti delle vacanze non dovrebbero superare i 10 minuti al giorno per ogni anno di scuola frequentato. Ci sono tanti consigli, c'è una ricerca americana che racconta un pochino come si fa alla fine, come si arriva alla fine delle vacanze. Molti ragazzini perdono le nozioni che hanno imparato durante l'anno scolastico. Quindi Alberto, presidieremo anche questa parte. Assolutamente. E poi c'è secondo me una terza parte che invece magari anche la più creativa, la più interessante da discutere con i genitori all'ascolto, ed è che il tempo delle vacanze è proprio un tempo altro, cioè un tempo che ci tira fuori dalla routine, ci permette di inventare nuove cose, pensare, proprio progettare uno spazio che è alternativo a quello che solitamente facciamo, e questo spazio creativo per la crescita dei nostri figli è infinitamente utile, molto da una parte sfidante, dall'altra parte proprio uno spazio di esplorazione dove possiamo sostenere il mondo delle passioni, il mondo non del dovere ma anche il mondo del piacere, e poi anche uno spazio di relazione, per cui un buon interrogativo è: come genitori ci sentiamo pronti in queste vacanze ad approfittare del fatto che le vacanze sono proprio un tempo di relazione dove noi possiamo rinforzare e rendere migliore il legame che abbiamo con i nostri figli? Allora, siete pronti? 800 24 00 24, siamo pronti? Potete naturalmente anche scriverci, seguirci su Facebook e su Twitter. Ma Alberto, quello che hai raccontato è la voce del genitore. Se invece dovessimo intervistare qualche bambino, quali sono secondo te i temi che loro, i piccoli, metterebbero in cima alla lista dei loro piccoli grandi problemi nell'avere davanti a sé 3 mesi di dolce far niente? Ma da una parte il fatto che vorrebbero chiedere ai genitori di non essere stressati, almeno nel tempo delle vacanze, cioè sono arrivate le vacanze, non dobbiamo correre come facciamo durante tutto l'anno, quindi mamma, papà, calmatevi un po'. Il secondo aspetto, presumo che per molti bambini possa chiamarsi noia, cioè se noi non abbiamo individuato un buon contenitore e anche qualche contenuto per lo spazio dei bambini, per l'organizzazione della giornata, un po' per dare stimoli, soprattutto ai più piccoli che magari faticano a intrattenersi da soli per molto tempo, il rischio è che noi ci sentiamo poi raccontare dai bambini proprio dei resoconti di giornate che sono molto molto noiose. La terza cosa che secondo me i bambini hanno bisogno è: mamma e papà, sostienimi nella scoperta delle mie passioni. Cioè appassionarsi a qualcosa non è automatico, spesso prevede un po' di fatica e un po' di percorso, però le vacanze sono proprio quel tempo libero, grande, ampio che abbiamo, dove lo spazio della passione può in qualche modo essere presidiato e coltivato, e quindi probabilmente i nostri figli si aspettano da noi che li prendiamo per mano, certo, in una zona che è un po' in salita, un po' faticosa, ma che poi regala il grande, proprio il grande dono di appassionarsi a qualcosa. Non a caso Alberto, ci portiamo, tutti noi ci portiamo nel cuore il ricordo delle vacanze di quando eravamo piccoli, e non solo quando eravamo piccoli, ma... Allora, agli amici all'ascolto chiedo di cominciare a chiamarci per raccontarci quali sono gli impegni, le sfide principali che come genitori dovete affrontare con i vostri figli quest'estate, ma anche la cosa più bella che vi è successo durante l'estate insieme ai vostri figli. Se non avete figli, siete stati certamente figli e bambini. Allora fate un viaggio con la memoria, ripensate al ricordo più bello della vostra estate da bambini, o se invece preferite la sfida più faticosa che avete dovuto affrontare, la persona con cui passavate le vacanze, gli zii, la nonna, i cugini. 800 24 00 24. Alberto, credo che un viaggio nella memoria faccia sempre bene. Sì, per me, per esempio, come psicoterapeuta, nella fase iniziale del mio paziente, un'area proprio che mi piace indagare è: raccontami un episodio o la storia della tua vacanza più bella di quando eri bambino, perché è molto bello vedere come gli adulti, questi proprio i ricordi delle vacanze sono quei ricordi che rimangono depositati nella nostra memoria emotiva e durano tutta la vita, e spesso sono quei ricordi che noi ci conserviamo nel cuore, ci manteniamo, perché durante le vacanze abbiamo scoperto le mamme e papà migliori che potevamo avere a disposizione. Quindi fuori le vacanze, i ricordi delle vacanze di quando eravate bambini, che così portano una ventata di vacanze in trasmissione. E se siete genitori alle prese con bambini piccoli, i consigli dei nostri esperti. 800 24 0024, nel nostro viaggio verso l'estate ci facciamo aiutare da una mamma, psicopedagogista e blogger per il blog Noi Mamme, il blog per mamme del sito di famigliacristiana.it, che ha pubblicato, pensate, per San Paolo Edizione, Reality Mamma, come rendere preziosi 3 mesi di fuoco, di cui vi facciamo ascoltare una breve traccia. Propongo a Thomas di fare una bella passeggiata a lungomare. E va bene, vengo! Che entusiasmo! Il mio piccolo guerriero mi cammina vicino pieno d'energia, poi si illumina. Mamma, adesso ho capito di che cosa è fatto il mare. È il cielo che si scioglie! Lo guardo con gli occhi adoranti. Torniamo per l'ora di pranzo dopo aver seppellito 10 meduse arenate. Oggi abbiamo deciso di fare il picnic sulla spiaggia. Posso fare un lavoro anch'io? Riempiamo i panini e mangiamo la frutta. Thomas, dopo il terzo panino, sembra pago. Papà, mi versi un bicchiere di cola senza latteina? Ridiamo tutti in coro. Thomas si alza furibondo. Sono offeso. Vado in un altro mare. Buongiorno alla dottoressa Tamburini, bentornata. Buongiorno a voi. L'estate, dottoressa, l'estate, ovvero 3 mesi di fuoco, non solo per il caldo. Ci dà qualche consiglio per affrontare al meglio come genitori la stagione, direi, più bollente ma anche più piacevole e più divertente dell'anno? Ci proviamo, direi che i consigli che reputo validi soprattutto per la mia quotidianità sono: il primo, un po' capire a che gioco giochiamo con i nostri figli. Cioè, credo proprio che è una sfida grossa per i genitori, è un pochino capire quali sono i giochi da fare insieme ai figli, perché il gioco è uno strumento fantastico ed è proprio importante capire quali sono i gusti sia dei figli ma anche quelli dei genitori. Cioè, io credo proprio, come mamma, un lavoro importante su me stessa è capire quali giochi mi divertano e mi appassionano e quali no, perché se io faccio un gioco che mi appassiona riesco a dare il meglio. Cioè, certo, per esempio, io odio giocare coi trucchi o vestire le bambole e mi appassiona moltissimo fare i lavoretti e magari giocare a pallavolo in cortile. Ecco, cerco di evitare i primi e invece mi intrattengo con i secondi, e i bambini lo capiscono. Quindi proponiamo ai nostri figli giochi che piacciono anche a noi, così. Sì, cercare di trovare una mediazione buona, insomma, che tutti stanno facendo una cosa che li diverte, che li appassiona realmente. Sì, quindi questo è il primo consiglio. Poi un altro aspetto è sicuramente, direi, lo riassumerei con la parola collaborare, perché effettivamente il tempo della vacanza è un tempo dove si è più rilassati in generale, ma spesso ai figli equivale a dire sono tutti in vacanza tranne la mamma, che incrementa il ritmo di vita perché deve anche occuparsi di tutti i residui della quotidianità, nel senso che si lasciano in giro più cose, si sta più tempo in casa e quindi la casa è molto più vissuta. In questo senso è proprio importante contrattare coi bambini poche responsabilità, ma affidare anche a loro una piccola parte di lavoro, per esempio sparecchiare la tavola oppure fare i letti, insomma piccole cose a seconda che dell'età del bambino, certo, per responsabilizzarli. E poi direi un ultimo consiglio è l'aspetto del regolamentare, perché effettivamente stando molto più tempo in casa e aumentando un po', certo, nelle famiglie dove entrambi i genitori lavorano magari il tempo non incrementa molto, ma di fatto in molte case si sta più tempo sotto lo stesso tetto, ed è importante regolamentare un pochino quanta TV accendere, quanti videogiochi, quando si può uscire, quando si può entrare, insomma tutta una serie di aspetti. E questo è sicuramente un'area molto interessante, il diritto di famiglia lo chiamerei un pochino, perché in ogni casa si stabiliscono poi delle regole ed è proprio importante rispettarle e raccontarle con chiarezza ai figli, perché i figli hanno un senso della giustizia e un senso dell'uguaglianza molto spiccato, quindi se io stabilisco delle regole è proprio importante, soprattutto dove ci sono più fratelli, mantenerle e rispettarle per tutti. E si possono, dottoressa Tamborini, si possono anche scrivere su un grande foglio, pubblicare, verrebbe pubblicarli. Andiamo nella provincia di Modena, c'è Savio, e subito dopo Lucia nella provincia di Roma. 800 24 00 24, vacanze con i figli o le vacanze che facevamo quando eravamo bambini. Savio, buongiorno. Ciao, buongiorno. Eccoci qua. No, volevo raccontare un po' la mia esperienza. Io sono separato e l'anno scorso per la prima volta ho fatto la vacanza con mio figlio e la mia compagna, e non nascondo le difficoltà, nel senso che è sempre un po' difficile iniziare una nuova storia e inserire il proprio figlio all'interno di questa storia. E ho visto, lui era molto preoccupato perché vive sempre questi sensi di colpa verso la madre, perché la vede sempre sola e abbandonata, mentre in realtà non è così. Però lui la vive come senso di colpa e quindi faceva molta fatica a inserirsi in questa nuova storia, in questa vacanza. Certo. E capisco che questo la preoccupi e le dia dolore. Sì, sinceramente, perché poi lui si trova bene effettivamente nella situazione, è che ha sempre questa ombra dietro che si porta dietro. Quest'anno lo rifacciamo. Direi che la situazione è decisamente migliorata. Perché ai bambini bisogna anche dare il tempo, ma bisogna, come dice sempre Alberto Pellai, accompagnarli. E chiederei proprio ad Alberto Pellai di dare un consiglio a Savio. E dico subito a Savio che intanto che lui parlava, io avevo già ricevuto 3 o 4 messaggi di genitori che mi chiedevano aiuto proprio perché Alberto faranno vacanze con magari il nuovo compagno o la nuova compagna, hanno i figli piccoli e questi sono dei momenti in cui si inizia una nuova relazione, un nuovo rapporto, sono momenti molto delicati. Sì, direi che in realtà servono moltissimo ai bambini perché si entra in uno spazio che è estraneo sia alle case da dove veniamo sia all'esperienza di vita precedente che abbiamo, è uno spazio nuovo e quindi potrebbe essere proprio uno spazio anche di rigenerazione della relazione. In generale il consiglio che darei ai genitori è quello di essere molto franchi, cioè spiegare a un figlio entri in una situazione nuova dove ci divertiremo perché siamo in vacanza, ma faremo anche molta fatica perché siamo in una situazione che non conosciamo e che dobbiamo esplorare insieme. Quindi se sei d'accordo, tutte le sere ci teniamo uno spazio per noi, 5-10 minuti, dove ci raccontiamo tutte le cose belle che abbiamo vissuto oggi, ma ci raccontiamo anche tutte le cose faticose che abbiamo vissuto oggi. Il papà può raccontare al proprio bambino, guarda, mi sono proprio reso conto, secondo me, che facevi fatica in questi 2 o 3 passaggi, ma tu prova a raccontarmi che cosa hai provato, che cosa hai sentito, domani se riviviamo la stessa cosa come possiamo farla andare un po' meglio. In questo modo la vacanza diventa una sorta di allenamento che permette con molta franchezza, esplorando le situazioni e le emozioni che proviamo nelle situazioni, di poter affrontare i nodi critici e di poterli superare insieme. Andiamo a Roma, anzi nella provincia di Roma c'è Lucia che ci aspetta all'800240024. Buongiorno Lucia, benvenuta. Buongiorno a lei. Io volevo condividere con voi la mia esperienza di parecchi anni fa, visto che sono abbastanza grande, di quando ero bambina, mia madre lavorava e quindi come terminava la scuola mi portava in campagna dai nonni, sì, dove io naturalmente giocavo con le cuginette, i cuginetti, ero a contatto con la natura, con gli animali e questo devo dire che mi ha arricchito talmente tanto che delle volte quando ho momenti di sconforto, quando ho momenti di depressione, ritorna a quei momenti, a questi ricordi e ne traggo per beneficio. Ecco. Grazie Lucia, volevo leggere anche alcuni messaggi che sono arrivati sui ricordi delle vacanze, anni 50, ricordi picnic alle falde dell'Etna con mamma e papà e i loro amici in sella alla Vespa di papà, che gioia, ci scrive Tina. Mentre Davide da Cagliari mi scrive, noi andavamo 3 mesi in campeggio al mare. Fortunati. La cosa più bella era quando il primo giorno mi toglievo l'orologio e le scarpe e sapevo che me li sarei rimessi dopo 3 mesi. Ringrazio gli ascoltatori che mi stanno scrivendo al 349-238-6666. Intanto leggerò naturalmente i vostri messaggi nel corso della trasmissione, ma prima di salutare la dottoressa Tamborini che è ancora in linea con noi, io vorrei chiedere a lei, che tiene un blog settimanale su Famiglia Cristiana, su quali temi in particolare pensa che si concentrerà durante la stagione calda? Ma direi due temi che mi appassionano molto sono: uno, l'alimentazione, e sicuramente l'estate con i suoi colori, i suoi sapori, un'occasione proprio per sbizzarrirsi in cucina, e credo che una cosa importante da fare con i figli è sia cucinare insieme, quindi trovare il piacere di fare delle esplorazioni ai fornelli in cucina, e l'altra cosa parlare molto di quello che si mangia, perché poi può essere che i nostri figli continueranno a raccontarci, mamma, ma perché a me non mi dai mai le patatine da portare a merenda, o piuttosto perché non andiamo a mangiare al fast food, però inizieranno ad appassionarsi, a chiedere ma cosa sono le fibre, ma perché bisogna mangiare questa cosa, perché questa cosa è scura, perché insomma si appassioneranno un po' a come è fatto il cibo, e già questa sensibilità è una piccola risorsa a cui agganciarsi. E il secondo aspetto è invece sulle relazioni, mi collego con quello che diceva Pellai, l'estate è un'occasione in cui parlare di quello che vivono ad esempio nei centri estivi, e quindi ogni giorno provare proprio a entrare dentro anche noi, anche se non siamo fisicamente presenti nel centro estivo, e farci raccontare le dinamiche, cosa succede, perché poi i figli trovano proprio il gusto di raccontare aneddoti, episodi, e diventiamo un po' parte, allenatori con loro proprio di competenze emotive molto importanti, oltre che divertenti. Mi piace molto, vengo a fare le vacanze con lei, dottoressa Tamborini. Va bene. Grazie per essere stata con noi, intanto io vi rinnovo l'invito, avete bambini piccoli da portare in vacanza, 800 24 00 24, siete stati piccoli naturalmente e volete raccontarci le vacanze che portate nel cuore, le persone con cui le facevate, i genitori, le nonne, gli zii, i cugini, 800 24 00 24, va a mare, montagna, campagna, forse molti di voi saranno ancora in dubbio nella scelta, cosa fa meglio al pupo, chiamateci, raccontateci cosa avete deciso, se l'avete deciso. Intanto io saluto la prossima ospite che è in linea con noi, la dottoressa Luisa Notari, pediatra di famiglia. Buongiorno, dottoressa Notari. Buongiorno a voi. Essere e benessere. Bambini in vacanza, dove lo metto il pupo e che soprattutto cosa gli faccio fare? 800 24 00 24, ma dove andiamo con i nostri bambini in vacanza? In linea con noi abbiamo la dottoressa Luisa Notari, pediatra di famiglia. Dottoressa Notari, sono passati i tempi in cui si trascorreva gran parte delle vacanze nei luoghi di villeggiatura. Adesso anche per i nostri bambini le vacanze saranno sullo stile un po' mordi e fuggi. Allora, ci vuole dare qualche consiglio per trarre il massimo vantaggio anche da pochi giorni di vacanza? Vogliamo far cambiare comunque aria ai nostri bambini? Certo. Allora, intanto i bambini che necessitano di più di cambiare un po' aria sono i bambini soprattutto che vivono nelle grosse città, che sono comunque tanti, e non c'è una durata minima della vacanza, ogni occasione può essere buona per fare cambiare aria al bambino. Certamente il bambino molto piccolino, insomma nei primissimi mesi di vita, ha un pochino è un pochino più delicato, non perché non possa essere trasportato e portato un po' ovunque, quanto perché si adatta in modo un pochino più lento ai cambiamenti di clima. Quindi certamente la gita in giornata a luglio con 35 gradi al mare per lui è più una fatica che altro, e quindi meglio stare a casa, insomma. Sì, ma sarà a casa, sì, andare al parco, oppure fare una breve gita magari in campagna, in un posto fresco, dove insomma con un breve tratto anche di macchina, perché la macchina comunque è sempre molto calda, oppure comunque climatizzata. Quindi direi che questa cosa va tenuta presente. Dopodiché è chiaro che cambiare aria, andare via anche qualche giorno, non c'è una durata minima, certamente rispetto a una volta che portavano i bambini proprio in villeggiatura per dei mesi, hanno delle difficoltà in più, quindi devono affrontare dei problemi pratici. Quindi certamente la gita in giornata va benissimo con i bambini più grandi, con i piccoletti non è così indicata, con tutte le eccezioni del caso, e su dove portarli dipende dal clima. Nel pieno dell'estate, nelle zone molto calde, certamente portarli un po' via dal caldo delle città è meglio, certamente, perché è più riposante per loro e anche per i loro genitori, che comunque insomma non è che siano freschi come delle rose, insomma. No, certo. Senta, parlava dei lattantini, voglio leggerle questo messaggio che arriva da Napoli. Sì. Luca, mia figlia nascerà il 20 luglio, va bene portarla in vacanza ad agosto, mare o montagna? Certamente va bene, a parte i primissimi tempi in cui c'è un adattamento alla vita sia della mamma nuova, della neomamma, che del neonato. Il neonato si considera neonato fino a 28 giorni di vita, però che le prime due settimane sono quelle in cui si assesta un po' la mamma, si assesta l'allattamento, e quindi certamente vale la pena di rimanere magari vicini a dove ci sono i riferimenti da tutti i punti di vista. Dopodiché la scelta dipende da dove abita il bambino. Se fa molto caldo, certamente il mare è un pochino più faticoso, però e quindi la montagna in linea generale è molto indicata, la mezza montagna, la montagna, perché si va a cercare proprio il fresco. Nel piccolino questa è una cosa molto, quindi per i piccini meglio la montagna, la mezza montagna, per quelli... è proprio una neonata, quindi certamente la neonata è la mamma anche che allatta, quindi è un periodo molto faticoso, e stanno sicuramente meglio al fresco, dove possono riposare così. Però però nulla toglie a portarle anche al mare, avendo la, diciamo, l'accortezza di non esporle a un caldo eccessivo. Certamente i colpi di calore e la disidratazione nei piccolini, certo, sono molto più frequenti. Un messaggio ci arriva da Anna: il mio bambino è un po' in sovrappeso, andremo in vacanza in un villaggio dove tutto il cibo offerto è a buffet, come fare a tenerlo un po' controllato sul cibo? Questa mamma ha paura che il bambino, sì, gli eviti. Sì. Beh, certo, avere davanti un buffet è una grande tentazione, quindi a parte, vabbè, il fatto che comunque, diciamo, il sovrappeso è una condizione che va affrontata nel, diciamo, nel lungo periodo, e quindi anche il bambino si deve godere la vacanza, però magari ci sono dei piccoli escamotage, al di là del fatto che nei villaggi e quindi all'aria aperta il bambino si muove molto di più, quindi, diciamo, invitarlo a fare attività fisica anche in gruppo, nuotare, vela piuttosto che altro. Insomma, il buffet c'è, diciamo, c'è la tentazione di servirsi più volte e proprio ai quattro palmenti, nel senso, sì, che non c'è una limitazione. Si può magari cercare di invitare il bambino magari a evitare, vabbè, a parte, diciamo, le cose inutili, che sono soprattutto le bevande gasate dolci, e poi quindi tutti fuori pasto, mangiare unicamente al pasto, e magari invece di mangiare gelati, creme, che fra l'altro col caldo non sono neanche particolarmente indicati, magari optare per un ghiacciolo piuttosto che una granita, che comunque è appagante perché è fresca e perché comunque è quasi uguale a un gelato, però ha certamente moltissime meno calorie, ecco, questo. E Alberto Pellai, che è in linea con noi, direbbe: bene, bisogna spiegare al bambino che, Alberto? Ma io direi che una cosa bella da fare con i bambini quando ci sarà da affrontare il buffet è dargli proprio uno schema di comportamento, cioè puoi mettere nel piatto quattro cose, venire al tavolo e poi eventualmente rifai un altro giro, quindi dargli proprio un'idea. E l'altra cosa è, io come genitore posso darti 1, 2, 3, 4 stelline alla fine di ogni pranzo, proprio basato sul fatto che nel tuo piatto voglio quantità adeguata, qualità e varietà. E quindi i bambini, e poi soprattutto che non si sprechi, perché si ha la tendenza, vero Alberto, a riempire, sì, questo, il piatto, giocano e sprecano, e buttare il cibo è veramente esatto, una cosa. Quindi già dicendogli: limiti le cose che metti nel piatto e prima di fare un altro giro devi avere finito quello che hai nel piatto. Ecco, questo è proprio un consiglio antispreco. Grazie alla dottoressa Notari per essere stata con noi, le grazie auguro una buona giornata. Grazie anche a voi, buone vacanze. Abbiamo Francesco dalla provincia di Roma e Guglia dalla provincia di Firenze. Francesco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io sono proprio di Roma, non della provincia di Roma. Ah, vede, proprio romano di Roma, qua vede, confondono. Volevo esporvi la mia esperienza per quanto riguarda le ferie estive dei, sì, bambini. Io ho due bambini, uno di 2 e uno di 6 anni. Sì. E il problema è che da giugno a settembre loro non vanno a scuola. Certo. E per 2 persone che lavorano, lo so, l'unica soluzione sono i centri estivi. Trasferirli tutti e 2 nei centri estivi, uh-huh, e purtroppo lasciarli là fino a che uno dei 2 non va in ferie. È logico, così bisogna attrezzarci. Meno male, certo, che ci sono i centri estivi, perché danno veramente una mano alle famiglie, se no non si riuscirebbe. E poi tenerli a casa è proprio impossibile. Cioè, io ci provo durante le ferie a tenerli a casa, ma non è possibile, perché hanno molta vivacità, hanno voglia di uscire, hanno voglia di vedere cose, di giocare. E quindi così vi state organizzando, Alberto? Sì, direi che poi i centri estivi sono molto ben organizzati, hanno figure educative adeguate e rimangono sempre un'esperienza molto valida e molto significativa per ogni bambino, a cui, se noi genitori ci fidiamo degli educatori del centro estivo, quella è una delle migliori proposte che possiamo fare ai nostri figli. Certo, quindi tu dici di fare anche 2 chiacchiere con gli educatori? Ma sì, chiedere il programma, verificare coi bambini quando tornano alla sera, dare poi tempo al bambino di adattarsi, perché per i bambini socializzare in un centro dove ci sono 100-150 bambini che magari non conoscono è sempre faticoso. Io un consiglio che do è: curate sempre come venite accolti, voi e i vostri bambini, qual è il rituale proprio di accoglienza, perché quello è un buon indicatore della qualità educativa del centro. Abbiamo Guia che ci chiama dalla provincia di Firenze, no, o da Firenze? Da Firenze, qua abbiamo messo tutti in provincia. Guia, eccola. Sì. Allora, io ho due figli, sì? E siccome sono in maternità, quest'anno li porto in vacanza 2 mesi. Sì. E, il primo mese il papà lavora e andiamo con la tata. Sì. E, il primo figlio ha 5 anni, è un po' geloso, diciamo, della sorellina di 6 mesi. E beh, fa il suo lavoro, e insomma, hanno, ha ragione. Hanno abitudini completamente, cioè dovranno avere abitudini diverse, perché lei non può stare troppo al sole, eccetera, eccetera. E ora il mio bambino mi ha detto: l'Allegra, che la sorellina, si dà alla tata e te stai con me tutto il tempo. Però insomma non mi sembrava giustissimo, certo, dedicare più tempo a lui, però fargli capire un po' che la sorellina da adesso, ecco, sì, la sorellina è arrivata, è arrivata e resta. Allora, in linea con noi abbiamo Adriana Cantisanio, tata Adriana. Ciao tata Adriana. Buongiorno, ciao. Questo è un caso proprio da tata Adriana, quindi la tata l'ha ascoltato, noi andiamo ad ascoltare le informazioni sul traffico e poi ritorniamo subito dopo insieme per capire come aiutare Guia. Molti di voi si troveranno nelle stesse situazioni: il bambino è nato da poco, il secondo fratellino, il più grande è un po' gelosetto, giustamente, e allora come dividersi? 800 24 0024. Le vacanze ci mettono alla prova. Essere e benessere. E siamo tornati insieme. Insieme a noi c'è tata Adriana, una delle popolarissime e bravissime tate della trasmissione SOS Tata, che ha appena pubblicato tra l'altro un libro dal titolo molto intrigante: Se mi vuoi aiutare, lasciami fare, come far crescere i nostri bambini divertendosi in cucina, di cui parleremo tra poco. Ma tata Adriana, che cosa consigli alla nostra mamma e a tutti i genitori che devono gestire in queste vacanze un pupetto con un fratellino un pochino più grande che mostra segni di gelosia? Ok, allora innanzitutto la gelosia è normale, ed è la pretesa del bambino che il genitore sia tutto per sé. Certo. Quindi appena ce n'è un altro bambino si sa che questo è impossibile, quindi bisogna fare un bel respirone e affrontare questa cosa con anche poche ansie. Allora, la signora diceva che il bambino le ha detto: ma perché non lasciare la piccola alla tata? E mi prendi con te tutto il giorno, che poverone, dal suo punto di vista lo capiamo. Assolutamente da evitare per 2 motivi. Uno, ovviamente, per la piccolina, che ha tutto il diritto di stare con la sua mamma e ha bisogno proprio del contatto e delle cure che le può offrire solo sua madre. E poi però proprio perché insegneremo in questo modo al bambino più grande che effettivamente uno si può dedicare o solo a uno o solo all'altro, e mentre lui potrebbe anche sentirsi più pacato, diciamo, nella sua gelosia, perché dice: oh, che bello, la mamma è tutta per me, effettivamente gli stiamo insegnando uno vale più dell'altro, no? E certo, quindi alla fine fa effetto boomerang, si ritorce su di noi e non va bene. La cosa che è molto difficile fare, specie quando la differenza di età supera a volte i 2 anni, è proprio quello di trovare momenti indipendenti con ogni bambino. Momenti insieme tutti quanti, ma anche momenti indipendenti. Quindi quello che potrebbe provare a fare la signora è lasciare la piccolina sì alle cure della dada, ma magari nel momento del pisolino, quando non richiede la costante attenzione della madre, e in questo momento invece andare a fare qualcosa esclusivamente con il figlio. Ad esempio, tata, tu suggerisci di portarli in cucina. Sì. È un'esperienza molto educativa, tra l'altro divertente, che io ho fatto spesso con le mie bambine quando erano piccole. Sì, penso che lavorare in cucina dia al bambino un senso di appartenenza alla famiglia, perché comunque si lavora per un bene comune e assolutamente necessario, che è quello proprio di preparare il nostro mangiare per nutrirci, per passare un momento insieme. Quindi dare al bambino un senso molto alto di competenza, di fargli capire che non è solo in grado di fare, ma è assolutamente necessario il suo aiuto al buon andamento della nostra comunità, quella piccola comunità che è il nucleo familiare. Infatti anche per la gelosia, più compiti, tra virgolette, si danno ai bambini, anche sì, piccoli compiti, anche solo per dire: oggi tocca a te sistemare i cuscini sul divano, dà quel senso di importanza che il bambino dentro di sé dice: non solo lo so fare, però hanno anche bisogno di me. E questo è molto molto importante, specie nel discorso gelosia, perché si capisce che non c'è uno preferito rispetto all'altro, ma che siamo tutti uguali lavorando per il bene comune. Quindi, poi è ovvio che nel caso della signora, la piccolina potrà far qualcosa solo fra qualche anno. Beh, certo. Comunque, Tata, quindi il titolo del tuo libro, Calzapennello, è un titolo che dà anche il consiglio: se mi vuoi aiutare, lasciami fare. Responsabilizziamo quindi i bambini, non solamente in cucina, ma nella vita di tutti i giorni. Sì. Saluto. Il mio libro è un pochino fuorviante, nel senso che molti pensano che sia un libro di ricette, di la maniera di far invogliare i bambini a mangiare, eccetera. Però, oltre a essere, dare lo spunto per divertirsi in cucina, il mio libro vuole dare delle piccole attività da fare, ma per lo sviluppo motorio del bambino, perché penso che oggi, anche all'interno delle scuole, sia un pochino... non si butta un occhio troppo troppo accurato su quello che è lo sviluppo motorio, certo, del bimbo, anche perché quindi non è solo un libro di spunti, di ricette, ma è proprio un libro da cui prendere spunti per aiutare i bambini a crescere bene, esatto, quindi a muoversi, a mangiare bene un po'. In cucina che ci si diverte, si parla anche della cultura nostra, vostra, insomma italiana, no? Io ormai dico nostra, mi sento italiana, ma... Fai bene, sono contenta, fai bene. Grazie a Tata Adriana. Grazie. Per essere stata con noi. Alberto, sì, ne hai imparate in questa puntata da tutte queste mamme. Ho preso appunti, li ho messi via, per cui li userò tutti quest'estate con i miei figli. Senti, ora saluto un'altra ospite, un'imprenditrice, mamma, anzi direi plurimamma, in una casa che non è solo affollata di figli, ma anche di animali, di impegni, e tutto questo l'ha raccontato anche in un libro, si intitola Dai vita ai tuoi sogni, ed è oggi qui con noi Marina Salamon. Buongiorno. Buongiorno a voi. Mamma di 4 figli, cosa ha imparato lei dalle vacanze con i 4 figli? Qua ci vorrebbe un altro libro. No, ho imparato che possiamo esplorare la vita insieme a loro e che dobbiamo preoccuparci un po' meno di farli abbronzare e un po' più di attraversare il mondo. E intendo dire anche una notte in una fattoria, cose semplici magari, ma fatte di fare esperienza insieme. Io ricordo un periodo in cui ero molto affaticata e preoccupata dopo una separazione. Abbiamo preso un camper che io non sapevo di saper guidare e ci siamo messi insieme ad attraversare l'Italia col camper. Ci ha fatto bene, immagino, perché ci sono delle esperienze che uniscono, legano e ci danno sicurezza. Lei, tra l'altro, nel libro invita tutti ad alzare lo sguardo, ma io direi anche ad alzarsi le maniche, no? E a mettersi seriamente di impegno in ogni cosa che si fa. Qual è il segreto di quella che, leggendo il libro, sembra una sua inesauribile energia e un ottimismo che l'aiuta ad andare avanti? Beh, ho scoperto, come dire, dopo i 50 anni e dopo periodi di magari fatica, dolore, che tutto ha un senso. Lo dico non solo perché sono credente, ma anche in termini laici. Anche le esperienze scomode hanno un grande valore. Per cui... sentivo poco fa, parlavate di cucina, io per esempio sono andata a lavorare dimenticando di fare la torta per l'ultimo figlio che in terza media doveva portarla all'ultimo giorno di scuola e mi sono vergognata, però al telefono gli ho detto: Francesco, mamma è via a lavorare fino a tardi. Lui ha fatto la torta da solo, l'ha portata a scuola, è un maschio, ha fatto bene fare una torta da solo. Certo. E pare sia andata anche molto bene, era fiero di se stesso. Quindi su questo noi mamme italiane siamo un po' troppo sommerse dal senso di inadeguatezza. Volevo riuscire a spiegare, come dice Obama, yes we can, sì possiamo farcela. Dai vita ai tuoi sogni, il libro di Marina Salamon, volevo farne sentire un breve estratto, ce la facciamo, allora Saluto Marina Salomon, saluto Alberto Pellai che è stato con noi in questa puntata aiutandoci e rispondendo alle nostre domande, i nostri dubbi. Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi è in redazione e andiamo a sentire questo breve estratto di un libro che vi consiglio di leggere, Dai vita ai tuoi sogni, e io vi aspetto domani. Quindi vi saluto sin d'ora, vi lascio con le parole di Marina Salomon. Credo che il nostro atteggiamento in gran parte dipenda da quanto siamo convinte nel profondo che la mamma è quella che insegna ai propri figli a camminare sicuri per le strade del mondo. Ho 4 figli tra i 20 e i 14 anni, ma prima di andare a dormire faccio ancora le punte alle matite, nemmeno andassero alle elementari. A volte sorveglio la preparazione degli zaini per la scuola e ci infilo le merendine. Periodicamente sbotto. Basta, perché sempre io? Non vi farò crescere come maschi viziati. Francesco, il più giovane e riflessivo, mi ha risposto: prova a mandarmi a scuola senza merendina. Vedrai se mi ricordo di prenderla o no. Ha ragione lui. Essere e benessere.